con l'autrice, regista, attrice Elena Bucci per parlare dello spettacolo 800 che sarà a Roma al Teatro Palladium 9 e 10 febbraio 2019. Elena, ben trovata. Buongiorno, salve a tutti, salve a tutti. Ci racconti di questo esperimento? Questo esperimento è stato proprio nel lungo percorso che abbiamo di condivisione dei progetti con il Centro Teatrale Bresciano, che adesso, al quale si è unita anche Emilia Romagna Teatro per molte produzioni. Quindi abbiamo due case amiche, perché sono veramente, c'è un sostegno di progetti molto libero e molto bello. A un certo punto c'era la possibilità per un'iniziativa particolare, che è la Palestra del Teatro, di fare un esperimento anche di scrittura drammaturgica. E allora Marco Ingrosso ed io ci siamo lanciati, visto che abbiamo una grande passione per questo 800, che poi, sapendo bene che dire 800 da un lato è nulla, perché nel grande fiume dei secoli, degli anni, dei giorni, dei frammenti di tempo, è un tentativo umano di poter ordinare una massa di sensazioni e di eventi ingovernabile. Dall'altra parte, appena diciamo 800, ognuno di noi ha una serie di immagini, di suggestioni che si muovono dalle più polverose alle più contemporanee e moderne, perché è stato un secolo nel quale lo sguardo proprio anche dell'arte ha cambiato, ha ampliato enormemente il suo orizzonte, sia verso l'interiorità, ma anche verso tutto il mondo esterno, anche verso classi sociali che non erano, che raramente erano diventate protagoniste dell'arte, se non per grandissimi artisti, come sappiamo, è sempre successa questa cosa, ma nell'Ottocento diventa molto più tangibile. E quindi le persone degne di essere raccontate, dipinte, viste, diventano molte di più, indipendentemente dalla loro provenienza, eccetera. Quindi dentro questa suggestione ci siamo messi dicendoci proprio uno con l'altro siamo pazzi. E abbiamo cominciato a tessere questa sorta di piccolo gioco, leggerissimamente fantasy, di questi due personaggi che nel loro viaggio nel tempo abbiamo dichiarato quello che il teatro stesso per noi è, una formidabile macchina del tempo che ci permette di spaziare da un'epoca all'altra e in qualche modo di dialogare con chi non c'è più, con una forma quasi di limpidezza medianica. Per cui siamo partiti per questo viaggio, questi due personaggi partono per un viaggio in treno per finire dentro un palazzo interminabile che non finisce più, dove trovano fantasmi di scrittori, personaggi, scrittrici, poetesse, personaggi stessi, suggestioni, anche soltanto suggestioni dell'epoca, immagini. E dentro questa esilissima trama il tentativo è quello di far trasparire proprio come ci piace a volte, no? Rendere il gioco del teatro talmente trasparente che noi lo sentiamo nel suo essere più misterioso, perché nella sua semplicità riesce a volte a scatenare delle suggestioni molto forti. Quindi la scrittura è stata fatta a quattro mani con Marco Sgrosso, dove lo spazio, il percorso della regia l'ho curato io, e poi alle luci c'è Loredana Oddone che con pochi elementi, allieva di Maurizio Viani, insomma è ormai non più allieva ma autrice, con la semplicità di mezzi inimitabile, non so come fa, quattro cose, e riesce a dare spazio anche alla nostra stessa suggestione. La stessa cosa avviene per Raffaele Bassetti con le musiche, che riesce, il tema di lavoro era quello proprio di evocare delle musiche dell'epoca e trasformandole, mettendole nel grande fiume delle suggestioni contemporanee. Ecco, questo come prima cosa. Sì. Senti, ecco, per chi ci ascolta, su quali suggestioni avete centrato lo spettacolo, sia dal punto di vista storico che dal punto di vista umano? Questa domanda mi fa sempre tremare, perché più siamo andati dentro questo secolo, più appunto dicevamo è impossibile, nell'impossibilità di una narrazione realmente esaustiva, Certo. è come se avessimo colto delle. Non so, è difficile da spiegare perché non è un collage, è come potrebbe sembrare dalle parole, ma c'è un disegno per il quale è come se un personaggio chiamasse l'altro. Ci sono delle autrici femminili che in qualche modo parlano della difficoltà della scrittura femminile, ma non è uno spettacolo ispirato a questo, come non è uno spettacolo ispirato alle perdite d'amore, ma c'è una suggestione di Anna Karenina, come c'è una suggestione di Bovary. Non è uno spettacolo ispirato alla religiosità nella letteratura, ma c'è Tolstoi, delle memorie di una contadina. Quindi diventano in primo piano i diari di coloro che non avevano voce. Quindi dentro questo c'è un passaggio di Chopin, di Sand che parla di Chopin. Quindi abbiamo, speriamo. E poi è un lavoro molto nuovo, ha avuto una lunga permanenza a Brescia, con sempre tutto esaurito dove l'abbiamo prodotto e dove si doveva fermare poi. Poi le persone hanno visto il materiale, sono incuriosite. E speriamo che è una forma di collegamento, di passaggio da una cosa all'altra, che è formata, è tessuta sul filo sottile della nostra suggestione e della nostra emozione, quindi talmente parziale che fa paura, ma non c'era un'altra strada. Devo dire che abbiamo aperto molto più, è come se avessimo dato uno sguardo molto di più, abbiamo tralasciato gli italiani, infatti la cosa divertente era quando ci chiedevano fate un 802 dedicato agli italiani, va bene, ci penseremo prima di avventurarci, ma è come se fosse stato uno sguardo anche a un mondo, una forma di Europa che era attraversata da una corrente di rinnovamento che la rendeva più unita di un'Europa unita con tutte le problematiche. Non voglio essere semplicistica in questo, eh. Però questo brivido di rinnovamento, questa curiosità culturale che passava davvero come una corrente fortissima, a volte rivoluzionaria, a volte compresa, a volte osteggiata, odiata, però abbiamo preferito rivolgere lo sguardo all'Europa. E alle suggestioni che ci appartengono di più, ecco, l'Europa comprendendo anche la Russia, come un mondo culturale che riusciva a mettere, non era sicuramente un mondo globalizzato, però diciamo era un mondo culturale molto curioso, ma che non perdeva l'altezza con le sue differenze, curiosa anche delle reciproche differenze. È chiaro che poi il romanzo è dilagato dappertutto, però nella curiosità delle reciproche differenze c'è anche un rispetto della complessità molto alto. Quindi, a quanto mi dici, c'è comunque un tributo, un omaggio a varie figure artistiche e culturali di quel secolo. Ma come se diventasse, e passa tutto attraverso il nostro occhio curioso di oggi, non è nostalgico, ma è un occhio curioso di oggi, è quella la sfida del passaggio, di non avere soltanto una galleria di pezzi, no? Come poteva essere il rischio. E se questa scommessa funziona, è come se in qualche modo davvero il tentativo era quello di aprire delle porte per qualche attimo sulla realtà vivente e poi richiuderle. E allora ricordiamo l'appuntamento con lo spettacolo 800 a Roma al Teatro Palladium 9-10 febbraio 2019. Per le informazioni come link diamo quello del sito internet delle Belle Bandiere, Sì, giusto? perfetto, e anche comunque il Palladium ha tutte le sue informazioni, però lì potete trovare tutto il materiale che c'è attualmente dello spettacolo, lì è presente. E allora un saluto e un ringraziamento all'autrice, regista, attrice Elena Bucci. Un abbraccio, un in bocca al lupo e ci vediamo a teatro. Grazie mille, comunque la drammaturgia, ci tengo a sottolineare, è sempre condivisa con Marco Sgrosso che cioè, diciamo che io ho guidato la regia, ma non si può prescindere dalla sua presenza, senza la quale il lavoro sarebbe completamente diverso. Ecco, diciamo, c'è Certo. sempre questo è molto importante. Bene. Ecco, grazie mille, Ciao Elena. grazie mille, grazie mille. Ciao.